La prima lettura che do è che guardo con un certo sgomento come, diciamo, l'intellettualità italiana, il mondo culturale, il mondo istituzionale abbiano archiviato con grande facilità una situazione che invece è drammatica per il numero di morti che non si era registrato in tale drammaticità nei decenni passati. Questo prima ancora della questione sull'accertamento di responsabilità, su cui ho piena fiducia nella magistratura e credo anche che tutti sappiano che c'è un punto di controllo anche del Garante nazionale che ha nominato un proprio avvocato, un proprio perito per seguire le indagini. Però dicevo, prima ancora dell'accertamento giudiziario, questo ci deve far riflettere perché è stato un brutto segnale inviato al mondo detentivo, quasi che questo sia un mondo a parte rispetto al quale, anche se si muore, c'è un disinteresse della collettività. E proprio a proposito del fatto che lei ha detto che è un po' un mondo a parte, si sente di dirmi come ha vissuto un po' questa fase storica della pandemia sul fronte dei diritti dei quali lei è chiamato a essere garante nazionale e quali richieste urgenti che lei porrà sul nuovo tavolo del ministro nuovo della giustizia, Marta Cartabia? Il punto centrale attorno al quale ruotano le mie osservazioni, le mie critiche e anche le mie richieste alla nuova ministra della giustizia nasce dal fatto che non esistono mondi separati, che la collettività sociale e che il carcere deve tornare ad essere una parte della nostra società, una parte problematica, una parte che rappresenta probabilmente la parte difficile del nostro corpo sociale, ma se non si esamina la loro parte difficile, poi si finisce per non riconoscere neanche la positività delle parti facili. Quindi questa è dietro la richiesta in generale. Certamente poi questa richiesta si articola in più punti. Con la senatrice Segre, la senatrice a vita, abbiamo fatto la proposta pressante, devo dire, abbiamo avuto risposta positiva a che la popolazione detenuta sia considerata al pari di tutte le altre collettività chiuse, come le residenze sanitarie e assistenziali, e quindi gli sia data una precedenza nei vaccini e abbiamo ora assicurazioni da parte del governo. Ma accanto a questo, c'è nel considerarlo come parte nostra, significa che il problema che sento discutere giustamente ogni giorno, per esempio nei dibattiti televisivi, nel rapporto tra giovani, scuola e non perdere la socialità, beh, è un problema che è a tutti i livelli, anche per quella che è, per esempio, la scolarità del mondo detentivo. La scolarità del mondo detentivo si è, in molti casi si è interrotta e accanto a quella si è interrotta anche quell'elemento positivo del nostro sistema penitenziario, che è il fatto di avere in molte situazioni un grande volontariato, grandi attività di cooperative sociali che entrano dentro il carcere. Se perdiamo questo, che è quasi l'unico valore aggiunto che ha il nostro sistema, ci rimangono soltanto dei corridoi vuoti, delle celle che in realtà spesso non sono neanche adeguate agli standard nazionali e internazionali. La pandemia ha portato anche gli smartphone per le videochiamate dei detenuti, un diritto, insomma, anche a contattare i propri familiari. Ma quali altri sviluppi si possono immaginare per l'utilizzo delle tecnologie che non si era mai pensato prima per le comunicazioni e anche per la scuola online? Allora, io ho avuto proprio pochi giorni fa un incontro con la capo dipartimento per le risorse del Ministero dell'Istruzione proprio relativamente al problema della continuità della formazione e dell'istruzione. Ora avremo un incontro, quello era un primo sul piano della conoscenza, ora avremo un incontro operativo, mi pare il 17 è stato fissato. Bisogna dotare le aule scolastiche carcerarie della strumentazione che possa far venire incontro anche a queste esigenze e prenderla come buona occasione anche per ricordare un punto: la scuola con l'università in carcere non sono degli invitati aggiunti, sono degli attori essenziali, non sono delle persone più o meno tollerate come degli ospiti che prima o poi se ne devono andare. No, sono uno degli elementi essenziali. Il dialogo che avviene tra l'istituzione scolastica e il Ministero della Giustizia deve essere un dialogo appunto interistituzionale, non di chi è il padrone di casa e chi è invece temporaneamente lì dentro. Devo dire che ho trovato molta sensibilità nel Ministero dell'Istruzione. Si tratterà di fare una pianificazione. Si tratterà anche di capire che non è che tutti gli indirizzi scolastici possono essere attivati in tutti gli istituti penitenziari e quindi si dovrebbero fare degli istituti in cui si sa anche qual è l'offerta formativa ed eventualmente i detenuti conseguentemente che vogliono seguire quei corsi essere trasferiti in quegli istituti e seguire, avere un impegno a seguire i corsi. È un ragionamento che stiamo un po' avviando.